questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Siamo pronti, ma quanti ospiti siamo anche qui. Questa puntata, non so come faremo a fare Radio Tube con tutti questi ospiti e che in ospiti diretta. Daniele, e che in ospiti. Diretta, in diretta, qua davanti a me Daniele Bellasio, sì? Gioca l'Inter stasera. Sì, gioca l'Inter, c'ho una camicia spessa perché fa freddo, e devo andare allo stadio, quando farà freddissimo. Quando va allo stadio col mutandone, sì. Anche il mutandone sì, è a dopo scacchi vado in bagno neri, qua, non voglio guardarlo, non voglio sapere. No, non è a scacchi, è una normale calzamaglia da sci che metti sotto ai jeans. Ma è a scacchi nerazzurri anche quella? No, quella è solo nera, ma chissà se stasera allo stadio, perché tu non lo sai, ma il nostro primo grande ospite di oggi ha qualcosa in comune. Allora, devo dire due sì. cose. Uno, che sono emozionata perché subito così in apertura abbiamo una esatto. di quelli che sanno fare la radio, mica due così infatti, come noi che passavano qua per via Monterosa, ci hanno tirato su a fare Radio 24. Nel mio caso è proprio andato così. Lui no. E poi uno lo che volevamo questo, da un sacco di puntate. Sta facendo un sacco di cose bellissime. Tantissime. Allora, io vorrei ritornare con l'immagine a un anno fa, la memoria. Sì. Perché è successa una cosa molto bella l'anno scorso e risuccede anche quest'anno. Allora, entriamo in atmosfera così. Amici del Dopo Festival, ma soprattutto amiche del Dopo Festival, dopo Baudo e Vespa, dopo Simone Ventura e Raffaella Carrà, dopo Fazio e Orietta Berti, per il ritorno del Dopo Festival in TV, la Rai ha chiamato a condurre Nicola Savino. Ma come Nicola Savino? Potevano scegliere uno bravo. Vabbè, dai, un po' di entusiasmo. Nicola Savino! Savino! Accendono le luci! Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti, pubblico di Rai 1, buonasera ai cantanti. Ciao Laura. Buonasera a tutti. Allora, com'è andato questo festival? Che bella notizia, hai eliminato Nicola, brava. Per me è un grande onore presentarvi il vero conduttore del Dopo Festival, Nicola Savino. Purtroppo è proprio lui. E immaginatevi quale onore possa essere per me introdurre a Radio Tube, qui su Radio 24, Nicola, anche faccio anche urlo così, Nicola Savino, ciao Nicola. Buongiorno, ciao, oh, ciao. Signor, ciao, che emozione. L'emozione è tutta mia, indosso già la calzamaglia che indosserò questa sera anch'io, infatti quello che ci lega non è solo il tifo nerazzurro, caro Daniele, ma è sicuramente la calzamaglia e non è una battuta, ecco. Quindi anche tu vai a metterti il calzamaglione sotto. Assolutamente, assolutamente, calzamaglia d'ordinanza. Anche a Villa Ormon avrai la calzamaglia. Allora, ecco, guarda, io credo che una delle puntate dello scorso anno, credo di averla fatta, o le prove, forse le prove del giorno prima in calzamaglia, perché Villa Ormon non è concepita, diciamo, per ospitare programmi televisivi, insomma non hai riscaldamento, ecco, ve la dico un po' tutta, e soprattutto soprattutto le prove sono un problema, cioè prima che cominci tutto, quando poi inizia tutto il Bue, la Jalapas Band e l'Asinello, che sono io, scaldano l'ambiente. Verissimo. Nicola, l'anno scorso tu hai avuto la gioia, il piacere, ma anche la responsabilità di tornare col Dopo Festival dopo un sacco di anni. Cosa hai provato in quel momento lì? Vabbè, ti sei fatto precedere dalla Pausini e tutto. Pausini che è entrata un minuto e 30 secondi prima, no, come ospite, cioè nel senso che mi hanno detto c'è Laura Pausini, oddio, ci siamo visti, cosa facciamo? Vai tu, entra tu, vai tu, così parti tu e diventa una cosa strana, e lei lo ha fatto, e io devo dire mi sono un po' emozionato adesso risentendolo, grazie a voi, questo per quanto riguarda l'inizio dello scorso anno. Per quanto riguarda, come dire, l'emozione del ritornare al Dopo Festival, non io, ma che il Dopo Festival tornasse dopo molti anni, è stata beata incoscienza. E me ne rendo conto quest'anno invece, che ho un po' più di coscienza di quel gran casino che è Sanremo, sono un pochino più emozionato dello scorso anno. L'anno scorso non mi rendevo tanto conto. Io sono Io sono un grande fan del Dopo Festival perché ho perso Ti piace più il Festival del Festival, di la verità. Sì, è così. E secondo me esiste un pubblico, soprattutto c'è qualcosa di snob, lo ammetto, nel dire... Certo. È vero, no Nicola? Beh, io il festival... ci ha costruito una carriera su questo. Cioè, voglio dire, perché uno guardava, mai dire Grande Fratello... faceva ascolti più alti del Grande Fratello stesso, io ero il primo della lista, perché voleva quel punto di vista sghembo in qualche maniera e non credeva totalmente alla liturgia del reality show. Qui è un po' diverso, ci sono canzoni, alle canzoni non si crede, le canzoni si ascoltano, si criticano, si cantano, no? Tutti cantano Sanremo, però è anche bello che ci sia una sorta di opposizione a questa governance sanremese. Cioè inserisce l'ironia in un evento che per tutta la serata deve essere molto evento istituzionale, tutto il resto liturgico con voglio dire anche l'evento ha al suo interno dei distruttori, no? Quest'anno c'è Maurizio Crozza, per esempio. Voglio dire, è dal Festival di Sanremo che Benigni gridò "voi ti laccio", cioè non ce lo dimentichiamo. E si limonò l'allora compagna per un minuto sul palco. Che... Certo, ve lo ricordo, anche se ero molto piccolo. Però insomma, anche il Dopo Festival non sfugge, ecco, a questa opposizione, che io lo chiamerei proprio l'opposizione. Comunque mi pare costruttiva. Possiamo dire che Nicola Savino una vita privata non ce l'ha, perché fai 8 milioni di cose. Ho appena telefonato io al vostro redattore implorandolo di andare in onda subito, perché devo andare subito a fare la spesa, perché di là c'è mia figlia che sta facendo ripetizioni e ho praticamente fino alle 18:30 di ora libera. Autonomia. Sì. No, però riesco comunque in questi... No, ma io torno sempre a casa. Sì, no, però tra radio, televisione, il festival, le cose... Cioè, adesso poi c'è qualcos'altro. C'è il boss in incognito. Che bello, quanto mi è piaciuto. Però io riesco sempre a rincasare per le 20, 19:30. Ma dai. Così, guarda, è l'Inter che mi tiene lontano da casa di sera. Per esempio stasera è un jolly importante, no? Per Inter Pescara, tutto questo, ma questo si chiama malattia mentale, ma è un'altra cosa. O fede, o eleganza, fede, bontà d'animo. Vabbè, lasciamo perdere. Tu hai detto che ti ricordavi appunto Roberto Benigni in quel vecchio Sanremo, vabbè, eravamo bambini. Qual è il tuo rapporto con Sanremo? Cioè, lo guardavi, ti piaceva il Dopo Festival? Allora, il Sanremo è chiaro che si guarda sempre, poi io sono nato nel 67, quindi diciamo ho avuto la fortuna di avere coscienza più o meno quando Sanremo usciva dagli anni bui. Ci sono stati degli anni bui intorno alla seconda metà degli anni 70, insomma, per intenderci, quando vinse Nino Verniaghi. Con Amare... Esatto, una specie di carnea. Chi era costui? Beh, più o meno come i cantanti quest'anno, diciamo. Ma, no, perché devi sapere che a Daniele non è contento, perché lui voleva ancora Patti Pravo. Ma no, volevo dei cantanti. Ce ne sono, di cantanti quest'anno, tu alludi, diciamo, alla vecchia guardia. Ci sono, e devo dire che sono molto in forma, cioè i pezzi li ho sentiti, mi piacciono molto. Poi ho capito cosa vuol dire, ci sono una serie di fuoriusciti dai talent show che piacciono al pubblico più giovane. E quindi, caro Daniele, è roba per noi. A me resta Ron e Paola Turci. Io sono... Ma poi c'è Michele Zarrillo, c'è Albano, sì. Guardate, io lo so che poi, come dire, Gigi D'Alessio divide, ma il pezzo di Gigi D'Alessio è una di quelle cose. Ragazzi. Io sono troppo meridionale d'origine per non emozionarmi, ma poi è per tutta l'Italia, è proprio l'italiano che fa la canzone per la mamma. Sono d'accordo. Perché voi siete tra i privilegiati che avete già sentito. Sì, perché noi le abbiamo già sentite. Privilegiati. L'abbiamo già sentite, sì. Non mi ricordo più cosa stavamo dicendo, ma lo stavamo dicendo bene. Ma lo stavamo dicendo bene, che è un po' uno dei segreti della radio, ho detto tra noi. esatto. Nicola, ospite del Dopo Festival. Ecco. No, sai perché l'Italia si sta chiedendo Sorprese? Pepe Vessicchio? Cioè tutti ci stiamo chiedendo, ma lo inviti Pepe Vessicchio? Pepe Vessicchio. Certo che lo invitiamo, ecco. Adesso c'è cioè, adesso stiamo vedendo quando, come e in che modalità, quindi sicuramente ne parleremo e sicuramente verrà in qualche modo evocato, quindi non rimarrete vecchi. Sì, perché i social sono impazziti, perché quando Peppe Vessicchio ha detto non vengo a dirigere l'orchestra, chiudete Sanremo, eccetera. Certo. È un po' lo zio, l'emblema. Il nonno o il busto che tutti vorremmo avere in salotto. Ecco, esatto. Questo è la pettinatura soprattutto che tutti vorremmo avere in testa, certo, io personalmente. Certo. Poi. Nicola, quando parti? Come ti organizzi adesso? Fisicamente, se volete sapere tutti gli spostamenti, sì, è presto detto, curiosa. Venerdì dopo la diretta radio vado a fare le prove a Sanremo, rientro sabato mattina perché ho le prove di quelli che calcio, quindi non mancare niente, e poi lunedì dopo la diretta radio vado a Sanremo. Capito, ragazzi? Rimango. Ma perché fa la radio? Ma guarda, fa la radio. Sai che non lo sa nessuno, credo. Una trasmissione con un giovane, che credo non ascolti. Sì, con un giovane alle prime armi. Col Mino Verniante. esatto. No, ma lui sa egli quanto io lo ammiri, lo ami, lo apprezzi. Ma c'è tempo per una domanda un po' da dietro le quinte? No. Credo. Sì, dai, falla veloce, una domanda dietro le quinte. No, a me piace Nicola Savino il fatto che sa lavorare da solo, cioè come conduttore capo, in gruppo con altre persone, tipo quelli che il calcio manca un po' la Jalappas, e poi anche, non so se dire, come nel mio ruolo co-conduttore alla radio. Come si fa? Bisognerebbe chiederlo alla santa donna di mia moglie che mi sopporta, perché è il sistema nervoso che risente di questa versatilità continua, probabilmente, ma qua sono drammaticamente serio, poi a casa non lascio passare. No, come dire, mi sfogo sulle poverette che mi sopportano, quando invece dovrei mandare al diavolo qualcun altro. Ma visto che siamo su Radio 24 e non dall'analista, direi che può bastare. Fantastico. Nicola, prepara la lista, vai a far la spesa, mi raccomando. Non dimentica l'analista, va bene. Prepara va bene, la sciarpa soprattutto. Va bene. Quella è pronta. Che meraviglia aver avuto Nicola Savino a Radio 24, perché io di solito l'ascolto su Radio DJ, stavolta su Radio 24. L'ultima cosa, fatemi dire che a proposito di sabato del villaggio, quest'anno il Dopo Festival va anche di sabato, quindi non c'è il solito rompete le righe a luna di notte quando Carlo Conti dà il vincitore, ma vedremo il vincitore con la sua maglia sudata e il suo sorrisone, che ha appena vinto il festival, lo vedremo al Dopo Festival. Ti pare che il processo alla tappa del Festival di Sanremo non andava in onda all'ultima tappa, è giusto? È questo il bello, infatti. E tutti noi giornalisti abbiamo commentato, non si cena neanche dopo la finale. No, magari è la scusa per far finire prima, dai. Fantastico, grazie Nicola, a presto. Ciao. Allora, io devo scusarmi tantissimo con i colleghi della viabilità, ma qui avevamo Nicola Savino per parlare Dopo Festival, abbiamo cambiato tutta la scaletta. Ma adesso traffico assolutamente, a tra poco. Radio Tube. Scusa, li vogliamo dire et Marta Cagnola et Di Bellasio? E poi vorrei dire che ho scoperto Medium. Quindi hai fate scoperto Medium. Slash sì. Lì ho fatto come Marta Cagnola, cioè allora, Daniele Bellasio.com. L'ho scoperto come quell'altro ragazzo lì, come si chiama? Quello là, Matteo. Te lo ricordi che era famoso una volta? Faceva la politica, faceva i referendum, o cambio l'Italia o cambio mestiere. Matteo Renzi. Matteo, sì. Ha aperto un blog su Medium. Tre giorni dopo che io avevo scoperto Medium. Sono ecco perché ha aperto sul blog su Medium. Mi ha imitato. È molto bello. È molto bello, anche se c'ha dei problemi economici. Ne parleremo in una delle prossime puntate. Invece in questa ha dei problemi economici Medium. No, Matteo. No, Matteo, figurati. Matteo, non so. Diciamo, non è che lo conosco così bene. Appunto, tu lo conosci? No, non sappiamo. No, assolutamente. Allora, che bello aver avuto Nicola Savino. Mi piacciono queste cose un po'. Guarda che tu sei di Radio 24. Non è che devi continuare questa dichiarazione d'amore fare per solo no, così. Ma è bello perché noi delle radio ci vogliamo sì, bene. Vi ho visto a Sanremo come vi volete bene, vi ho visto. Non è vero, noi ci vogliamo bene, quindi a volte capita che ci salutiamo con gli amici delle altre radio. Sì, ho capito, però devi essere un po' aziendalista. Mamma non mia, esagerare. Ma sono sempre qua, sono sempre qua Radio 24. Vabbè, allora, chi invece ha cambiato non radio ma televisione? Sì, è quello che a te piace tanto. No, però ho riso tantissimo di questo spot, anche perché è una citazione di uno dei miei film preferiti di tutti i tempi, Ogni maledetta domenica con Al Pacino, che ha quel monologo pazzesco, stupendo, dove lui dice un centimetro alla volta, quelle cose che tutti si eccitano, che tu vuoi uscire di lì e cambieresti il mondo come John Travolta dopo, eh? No, sono qua a vinta dal tuo sì. Comizi tu ti fermi? No, ti ascolto. Ok. Dicevamo. No, allora, ma quando parti col comizio così devi portarlo in fondo. Allora, è il mio preferito, Maurizio Crozza. Sì. Sentiamo lo spot con cui annuncia il promo con cui annuncia tutte le novità. Io non so cosa dirvi davvero, signori. Per 3 anni saremo su una rete dove non ci sarà la Gruber a lanciarci. Non ci sarà Mentana dopo di noi. Saremo in mezzo a malattie imbarazzanti. Airport Security, Nuova Zelanda, io e i miei parassiti. Ogni maledetto venerdì saremo in onda a sputare sangue su una rete che io ho scoperto solo quando mi sono seduto male sul telecomando. E allora rimbocchiamoci le maniche e andiamo al 9. Andiamo nel 9. Alla 9. Andiamo 9. Sarà un inferno. Andiamo su una rete che non sai nemmeno come chiamarla. Bellissimo, grande. Sulla 9, credo si dica la 9, no? Sulla 9. Che prima aveva un altro nome, che non diciamo perché l'abbiamo già detto, e quindi non lo so. Il 9. Ma la 9. Tu sapevi che danno parassiti, malattie, ma che è sta roba? Ma sì, ci sono dei programmi straordinari. E poi a un certo punto arriva Crozza. Ma sono contentissima. Però non vedo l'ora. È molto bello, molto bello. Poi no, è molto bello, poi vabbè, io adoro Crozza, non vedo l'ora di sapere cosa farà nel a video Sanremo. C'erano tutti i suoi personaggi davanti, lui parlava e c'era, poi finisce, andate cercatelo perché è carino, finisce che c'è Crozza Montezemolo che urla e va via. A proposito di Sanremo, su Twitter e su Instagram sì. Anche questa mattina ha annunciato che sarà ospite anche Alvaro Soler. Oh, quindi che la abbiamo notizia... avuto anche a Radio 24. Sì, questo sì. È abbastanza un cantante, effettivamente. Vedi, quello uno di quelli che ti piacciono. Sì, ecco. X Factor. Allora, dai, facciamo una cosa. Togliamoci questo dente del parlare del calcio. No, non parliamo del calcio. Allora, tu devi sapere che hai presente la Cina? È vicina, la sì, Cina sì. È vicina. Allora, il calcio... È praticamente sta vivendo una sorta di rivoluzione da tutti i punti di vista per colpa del fatto che la Cina lo sta scoprendo, ci sta investendo. Mm-hmm. Io sono il mio proprietario di gran parte del mio cuore. Tu sai che è una società cinese, certo, Ling, è proprietario certo. Dell'Ling. Allora, Forza cosa sta succedendo? Forza Inda, famosissimo, che infatti tutti prendono in giro, ma in realtà è diventato un brand pazzesco. Certo. Allora, cosa succede? Che noi dobbiamo guardare le partite alle 9 della mattina più o meno, perché il fuso orario, se no in Cina, come fanno a vederlo. Tutte queste cose sono confluite in un'enorme festa di Capodanno. Ah, certo, perché il Capodanno cinese culmina oggi, il credo che oggi sia il culmine. Ah, il culmine, perché ovviamente dura tanto. Sì, non è come il nostro parole. 3, 2, 1, ora champagne. Che dicono auguri, passano 3 giorni, quindi anche il Capodanno dura 3 giorni. Mm-hmm. Chi ha dovuto dire auguri in cinese? Tutte le squadre italiane, perché... No. Eh sì, perché tu devi vendere là. Ora, capisco la prima che lo deve fare per forza... La prima è l'Inter, credo, no? L'Inter. Sentiamo l'Inter come ha fatto gli auguri cinese. In cinese. Si nien quai le. Si nien quai du. Si nien quai le. Si nien quai le. Ma chi sono i giocatori? Io non... Giocatori, poi c'è Steven, sai, c'è Steven, non so se è il ruolo esatto, amministratore delegato, molto amico di Pioli, diventato, no, ma è simpaticissimo, giovane, 27-28 anni, E sta fanno sempre qui, gli auguri in il centro sportivo si chiama Suning, sulle magliette c'è scritto tutto in cinese, ma siccome abbiamo in regia... Cristian Goldoni che ci fa da come lo psicologo faranno gli auguri di Capodanno. È vero. Quando dici delle cose vere mi fai ridere. Allora, anche gli aquilotti hanno dovuto fare gli auguri in cinese pure loro. Vabbè. Anche se non si capisce perché, non è che... però l'hanno fatto. Sentiamolo. Senti i laziali. Chuan si è qua, lo. Chuan zi qua lo. Allora, mi stava dicendo in interfono Christian, in cinese peraltro, in te l'ha cinese detto, ovviamente, in mandarino stretto, che la Lazio, sì, forza Roma, che la Lazio e Napoli oggi avevano... La Lazio, il Lazio, come la nome? No, quello sono sicura, la Lazio. E il Napoli oggi avevano delle offerte allo stadio per i cinesi, costava meno, vabbè, è carino. Sì, perché non riescono a riempire la Lazio. No, vabbè, anche gli ultimi, che è, ce l'abbiamo gli ultimi auguri? No, finito. No, basta. Ce l'abbiamo. Barcellona. Abbiamo Barcellona? Barcellona, anche loro, sentiamo dai, se sono che più bravi. Dai, che a te piace lo spagnolo, vai. No, va spiegato. Ah no, parlano. Sarebbe bello se qualche cinese ci scrivesse al 349-238-6666 se sono ben fatti. Io purtroppo il cinese non lo parlo. Lì c'era una scena tipo da ristorante cinese, arrivavano, mettevano da mangiare. Vabbè, un po' un luogo comune, però vabbè, insomma. Parecchio. Vabbè. Comunque questo è per dire che appunto è la Cina, è il calcio. E quindi tanti auguri, buon compleanno cinese a tutti coloro che ci scrivono. Allora, argomenti della prossima mezz'ora. Parliamo un po' di post-verità, parliamo un po' di Trump, parliamo un po' di tante cose che sono successe. Lo facciamo dopo? Durante la settimana? Sì, parliamo di buongiorno. Buongiorno. Allora, non diciamo chi qua sarà. Qua in diretta a Radio 24 avremo quello che dice buongiorno dalla prima pagina di un giornale tutti i giorni. Allora, non diciamo chi è. Buongiorno a tutti, a tra poco. YouTube. Siamo un po' più disciplinati in quest'ultima mezz'ora di RadioTube, che per me è anche l'ultima mezz'ora di queste tre ore di diretta, perché sì, abbiamo siamo. Fatto cosa un abbiamo delirio fatto? Nella prima mezz'ora. Abbiamo cambiato blocchi, abbiamo scalette, cambiato, abbiamo raccontato meglio, questo, mettiamo abbiamo ordine, anche avuto mettiamo un ospite ordine. Che mi è piaciuto molto. Che bello avere Nicola Savino prima del dopo festival. E prima di Inter Pescara. Certo. Invece ovviamente. Adesso di che cosa parliamo? Allora, abbiamo... Soprattutto ci colleghiamo? Allora io ho commesso un errore, devo dire la verità. Non la brillantina Linetti, perché abbiamo cominciato il sabato parlando di Carosello. No, ho commesso un errore perché ho parlato di post-verità. Ma non c'è più la post-verità. Cosa ci sono? Scordatevi la post-verità, perché sono arrivati i fatti alternativi. Cosa esatto. Sono i fatti alternativi? The White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts. Il giornalista si mette a ridere. Ma che è? Quando dice no, ma ci sono dei fatti alternativi. E lui per un momento dice. What? I fatti alternativi? Allora, scordate la post-verità della quale abbiamo parlato la scorsa settimana, perché sono arrivati i fatti alternativi. L'idea vincente è venuta, l'abbiamo sentita, a Kellyanne Conway, stratega politica del Partito Repubblicano d'America. Allora, io non sto dicendo cosa caso, no, sto citando dal Buongiorno del 24 gennaio 2017. Il primo Buongiorno? Di Mattia Feltri, buonasera. Ciao, Mattia. Buonasera a voi. Eccolo qua. Allora, io quando ho letto questa notizia del tuo esordio al Buongiorno, ho subito scritto a Daniele: beh, allora dobbiamo chiamare Mattia Feltri, perché il Buongiorno, insomma. Si vede da Mattia, io ho scritto. Vabbè, lasciamo perdere le freddure. Vado via. È bello che avevi detto che dovevamo essere più seri. Scusaci, Mattia. Scusa, purtroppo. Mattia. No, però io non capisco perché la disciplina debba intervenire quando tocca a me. Esatto. Perché... è perché è giornalista serio, inviato. Poi sappiamo che sei in piazza a lavorare, a seguire un evento politico importante. Mi avete costretto ad abbandonare Giorgia Meloni, quindi sono... nel dolore in questo momento. No, però spieghiamo una cosa. Sulla prima pagina della Stampa, importante giornale nazionale diretto da Maurizio Molinari, Da una settimana il buongiorno non è più scritto da Massimo Gramellini, peraltro cuore toro come Mattia, ma è scritto da Mattia Feltri. Cioè tutti i giorni, Mattia, tu devi trovare una storia e raccontare una cosa. E hai iniziato con una cosa che è al centro del dibattito, peraltro anche nostro, al telefono, via chat, via qualunque cosa, con i fatti alternativi. Raccontaci come sei partito. Io sono partito con questa vicenda perché quando mi sono imbattuto quel pomeriggio mi è sembrata particolarmente interessante, è un tema di cui poi io mi occupo da un pochino di tempo e questo mi è sembrato un salto di qualità ulteriore e l'ho chiamata, diciamo, la realtà on demand. Cioè, nel senso che noi abbiamo visto in questi anni diffondersi delle notizie che non erano notizie, basate su fatti che non erano fatti, cioè diciamo l'inverosimile ormai piace più del verosimile. Qui siamo alla verità on demand, cioè se io penso che ci sia, che stia succedendo qualcosa, troverò sicuramente da qualche parte qualcuno che mi conferma nella mia idea, per quanto sia balzana. Allora, quindi... in rete ormai è così, però tu lo spieghi bene, dici fatti alternativi, il cui grande vantaggio è di non confliggere coi fatti ufficiali, ma di viaggiare felice paralleli. È finito il tempo delle risse sui social. Per te l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna? E che problema c'è? È soltanto un fatto alternativo. Ma soprattutto, se qualcuno non avesse ancora afferrato cos'è un fatto alternativo, tenetelo presente se vi trovano a letto con l'amante. Ti sbagli, tesoro, per me è soltanto un soggetto alternativo. È così, no? Sì, poi le risse sui social continueranno, ma io oggi posso andare in redazione, non lo farò perché non mi importa molto scrivere che c'erano 3.000 persone in piazza e domani Giorgia Meloni mi dirà no, erano 42.000, per me è solo un fatto alternativo, quindi è buona la mia opinione, è buona la sua, ognuno si tenga quello che preferisce. Come si fa a fare il giornalista adesso? Ma lo si fa come sempre, poi del resto sai, la colpa è essenzialmente nostra, che per adesso non posso fare la storia del giornalismo, ma molto brevemente, per abbellire i nostri articoli qualche volta abbiamo infilato l'inverosimile. Quindi quando è un po' colpa anche del giornalista. Beh, naturalmente, no, io non penso che sia colpa di qualcuno specificamente, penso che le società si muovano tutte assieme e quindi noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Noi abbiamo visto fior di giornalisti che senza tradire la realtà infilavano qualche dettaglio inventato e poi a poco a poco si è finiti così. Io molto velocemente vorrei sottoporvi tutti i retroscena che leggiamo da anni, in cui c'è scritto Renzi nella stanza con Boschi, dice due punti aperte le virgolette, eccetera. Quel virgolettato è una post-verità o un fatto alternativo, o chiamatelo come volete, perché nessuno è in grado di costruire quel virgolettato, quindi è un arbitrio, quantomeno un arbitrio. Mattia, noi ogni tanto ci piace chiedere come avviene il dietro le quinte delle cose. Ora, siccome scrivere tutti i giorni una storia sulla prima pagina di un giornale credo sia un lavoro decisamente impegnativo, non facile, nel trovare la storia, saperla scrivere, decidere con che stile, con che tono. Oggi per esempio c'è un tuo buongiorno di tono completamente diverso, direi, non so, veramente commovente, e invito a trovarlo, tanto si trova anche sul sito della Stampa, non ci entro, così c'è la sorpresa. Come lavori tu? Cioè ti segni un appunto, lo fai di getto alla fine, ci pensi tutto il giorno e non riesci a non pensarci? E naturalmente quando io faccio rubriche brevi praticamente da tutta la vita ormai, ho cominciato più di 15 anni fa e quando si fanno le rubriche brevi ti entra il tarlo in testa e ci pensi anche quando non la devi fare, cioè io oggi non la devo fare ma ogni cosa che vedo certo, penso se potrebbe adattarsi e poi ogni giorno viene in maniera diversa. La vera grande difficoltà è trovare qualche cosa che non sia soltanto una cosa da raccontare ma che abbia un senso, che spieghi qualche cosa che sta succedendo oggi attorno a noi. Questa è la grande difficoltà, certe volte la posso trovare alla mattina, certe volte la trovo alla sera. Sì, anche perché poi immagino che lì devi stare attento sulla, così sei sul confine nel dire devo raccontare una cosa, però non voglio fare la morale, non voglio... Devo essere popolare perché comunque stare sulla prima pagina di un giornale, certo, vi si dà una grossa responsabilità, a quel tipo di rubrica viene addirittura detto ogni tanto che sono legate decine di migliaia di lettori, certo, cioè quindi è una cosa grossa. Qualcosa ti ha fatto paura nel dire di sì? Beh, no, naturalmente sì, soprattutto perché devo prendere l'eredità di Massimo Gramellini, che è un mito, soprattutto in Piemonte, è uno che tutto quello che tocca trasforma in oro, e oltretutto è un amico ed è il collega a cui devo il mio arrivo alla stampa 12 anni fa, perché fu lui a suggerire a Sorge la mia assunzione, quindi è stato ovvio e facile dire di sì, ma ho saputo immediatamente che mi infilavi in una grana senza fine, cosa che è puntualmente avvenuta. Questo è il momento della trasmissione in cui poi Daniele vuole parlare di Beppe Grillo. Allora io un po' mi spavento, perché poi ho sempre paura che arrivino tutti i messaggi che ce l'avete poi io sempre sono con accusato Grillo. Di difenderlo troppo, di difendere troppo. Sì, tu sei accusato di difenderlo, io invece di attaccarlo. Sì. Non lo so come, ma vabbè. Cosa vuoi mandare in onda? Vogliamo mandare in onda questo Sgarbi? Sì, dai, che ha fatto ridere. Parolacce, poi non ne parliamo mai. Sgarbi una volta era al centro di tutta la televisione, meno. Noi un po' meno. Dai, mandiamo un po' di parolacce, ho invidia della zanzara, parolacce. Vai. È il capo, sei tu, e in capo a te, tu devi avere l'avviso di garanzia. Non so chi lo deve mandare per scala, chi lo manda? Al sindaco di Rigopiano, se il paese. Vabbè, però questo è un ragionamento, diciamo, paradossale. È arrivato alla specie ad Ambrangiolini, lì, come si chiama? Alla Raggi, alla nuova Ambrangiolini, no? A quella lì, cioè Roma a Ambrangiolini. C'è una che appena non fa sapevo una pensare. L'ho comunicato a Beppe, l'ho detto a Beppe, ho scritto a Beppe, ma vaffanculo, Beppe del cazzo, vabbè. L'ho detto a Beppe, l'ho detto a Beppe, Nardella, vabbè, quando fa una cosa, l'ho detto a Renzi, ma vaffanculo, no. Roma non può avere un sindaco innocente, perché è un innocente, è come la Vispa Teresa, che cazzo di sindaco è? Vabbè, un po' di parolacce, dai, era da tanto che non sentivamo Sgarbi, volevo così un po' di pepe in questa trasmissione. Non lo so, a me sembra che il dibattito politico ormai, come è successo spesso in passato, sia pro o contro 5 Stelle. Non so, Mattia, esagero. Mi sembra che ci siamo fatti prendere, anche noi giornalisti, le linee editoriali dei giornali si capiscono dalla posizione nei confronti del Movimento 5 Stelle ormai. La Raggi, che è lì da 6 mesi, ne ha fatte di ogni, ma è anche stata, non so, a mio modo di vedere, vivisezionata come mai nel passato, come se, insomma... Forse sbaglio, sono troppo clemente? Allora, io penso che Virginia Raggi abbia subito lo stesso identico trattamento che hanno subito prima di lei, quantomeno Marino e Alemanno, perché adesso non dobbiamo dimenticarci quello che c'era sui giornali, quello che si scriveva tutte le volte, anche di quei sindaci. Quindi, siccome i 5 Stelle sono arrivati in politica l'altro ieri, pensano che tutto quello che succede a loro sia un'esclusiva, invece è già successo in precedenza. Però posso dire che io trovo indecente e mi fa veramente orrore leggere in questi giorni negli articoli sull'inchiesta di Raggi delle cose che non c'entrano nulla, tipo sue valutazioni di simpatia o antipatia per colleghi di partito, conversazioni avute. Ecco, questa qui è una cosa che mi fa orrore, mi faceva orrore quando succedeva agli altri e continua a farmi orrore adesso. Mi dispiace che i 5 Stelle abbiano alimentato in questi anni questo andazzo. E dici che secondo te potrebbe in qualche modo anche questa fase farli maturare come partito politico fino al punto di riscoprire alcuni principi, tipo quello del garantismo? Se ne discute molto, adesso Grillo sembra arrivato a dire che può restare anche, già resta da indagata, insomma stanno cambiando delle cose, ci credi in questa maturazione? Io ci credo in questa maturazione, diciamo che è un partito che aveva 8 anni e adesso ne ha 11, prima di arrivare a 44 ce ne vuole ancora, spero che la maturazione continui, perché quello, diciamo, il garantismo che loro applicano, loro un garantismo confuso, senza capo né coda, però continuano ad applicarlo agli altri, quindi non serve a niente, è solo un'autodifesa. Vorrei anche aggiungere velocemente che noi possiamo dire e scrivere tutto, in cattiva o in buona fede, sui 5 Stelle forse cambierà la storia dell'amministrazione di Roma, ma non credo che potrà cambiare la storia del paese, non perderanno neanche un voto. Mattia, a parte il fatto che trovo che ti somigli molto il disegno che accompagna la testatina del buongiorno, è molto somigliante. Volevo dire che sono anche un po' più bello. Sì, diciamolo così. E non si vedono gli occhi azzurri. Non si vedono gli occhi azzurri. È bianco quello, e nero. È vero. Lo dici anche perché con cognizione anche tu, di esatto. Occhio. Sì. Ti chiedo, visto che poi avete aperto anche l'account del buongiorno che non esisteva, del quale non so. Non ricordo l'esistenza, se, visto che tu usi molto i social, in particolare Twitter, se anche da lì prendi delle ispirazioni. No, non mi è mai successo e non mi è successo nemmeno quando facevo rubriche precedenti sulla stampa. Può essere che mi imbatta in una notizia, ma perché è una notizia che magari può essere di un quotidiano, può essere di un sito particolarmente popolare, ma quindi è sempre, viene sempre dalla stampa, diciamo così. No, tendenzialmente no. Vedi. Ecco, no, è perché io così lui su Facebook è molto, fa delle cose molto polemiche, cioè molto polemiche, apre dei dibattiti, ecco, esatto. Crea dibattiti, perché molto bene. Facebook è un po' la mentana, ecco. C'è come qualcosa. Non so come va bene, Mattia, no? Un po' la mentana. Ma io alla mentana? Su Facebook, cioè a te piace su Facebook ogni tanto scrivere una decina di righe secche gnecche che aprono un dibattito. Sì, perché Twitter e Facebook sono profondamente diversi, è inutile che vi spieghi perché, lo sapete benissimo. Ogni tanto metto su Facebook cose che non posso mettere sul giornale, non perché mi sia impedito, ma perché... Fai un altro lavoro, È un altro tipo di lavoro. Sì, funziona abbastanza. E poi devo dire che rispetto, non so perché, ma rispetto a Twitter, su Facebook ci sono degli utenti più educati. Vedi? Vedi? Ecco, vedi, ecco, bene, vedi. Bene, bene. Ciao che Mattia, meraviglia. Buon lavoro, buona serata, buon buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie a Mattia, grazie a voi, Feltri, ciao. A presto. Siamo traffico in ritardo sempre. E poi sempre. Traffico, siamo in ritardo, traffico e poi ancora tra poco. Radio Tube. Lei ha scritto un libro bellissimo, una vita invidiabile, con viaggi, avventure, esperienze in tutto il mondo. Dopo la politica che vuole fare? A me piace tanto scrivere della politica del possibile, viaggiare, scrivere di tutte delle realtà molto diverse dall'Italia. Scrivere... Non è che vuole fare il giornalista, no? Ma il giornalista è un mestiere stupendo. C'ha ragione. O il documentarista. È allora, stupendo. Senta... Cioè ci ruba il mestiere, giornalista, no. Documentarista. Sai cosa? È che ha detto vabbè, che vuole andrò scrivere. A fare il politico allora. A parte che avresti un bel successo. Non so. Senti, no, è che ha detto che vuole scrivere, perché sennò te lo proponevo per il quinto anno di Radio Tube, Radio Dibba. Ma a me non dispiacerebbe. Era Alessandro Di Battista, vabbè. A me non dispiacerebbe. Ma adesso chiudiamo con delle belle cose, dei momenti diversi. Sì, abbiamo fatto un po' abbiamo gli scemoni, sì. Abbiamo fatto un po' gli scemoni. Sì, abbiamo scherzato un po'. Hai trovato allora, una canzone questa mattina che ci hai mandato. Dunque, intanto se andate sul sito del Sole 24 Ore potete leggere la storia di questa canzone che è diventata virale. È una canzone bellissima che di un video che mette assieme anche una manifestazione di mamme di tutte le religioni del mondo, le principali, in Israele. Questa canzone e questo evento in realtà è un evento di novembre. No, per quelle strane cose che accadono in rete spesso e che chiamiamo fenomeni virali, in occasione della giornata della memoria, questo video è stato ridiffuso in maniera pazzesca sui social network, sai quelli che ti arrivano su WhatsApp, certo, tu ce certo, li hai, no? Quelli ma che sì, ti gira, amici, certo. E quindi sembra che questa cosa sia accaduta ieri, è un fatto alternativo perché in realtà è accaduto a novembre. È una cronologia alternativa dovuta all'emozione che ha creato in tutti noi la giornata della memoria. E evidentemente, come il David Bowie bambino di sabato scorso, questo video è ripartito. Lo vuoi sentire? Sì, vorrei sentirlo. Sentiamolo un pezzettino. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה. Daniele, mi racconti un po' chi dunque sta sono cantando? Le mani. No, allora chi sta cantando? Dopo lo twittiamo perché non me lo ricordo. Ok. È ufficiale, però. Ma che stanno cantando tante persone. Certo. Ci sono le immagini di questa manifestazione di mamme con figli, con bambini. tutte assieme, è una preghiera fatta in tutte e tre le principali religioni, e insomma è un simbolo che la diventato... preghiera di madri ebree, musulmane e cristiane. Esatto. Mi ha mandato questa mattina. Esatto, esatto. Trovate il video facilmente, è stato la cantante condiviso. Me l'avevi scritto tu stamattina, sì, no, ho trovato la mail, Yael Teckelbaum, con i nomi è il video ufficiale del movimento Women Wage Peace. Bella la preghiera delle madri di ogni, sì, religione, sì. È invece bello che sia tornata proprio nel giorno della memoria. Invece tu mi hai segnalato quest'altra cosa bellissima. Questo video non riprendere, non filmare. Allora, ascoltiamo un pezzettino di audio di un video che in questi due giorni gira parecchio. La gente sta molto affettata, viene llegando, llorando, perché si stanno reencontrando. Y en un momento perdieron contacto de los celulares. Hay solamente una compañía con servicio disponible porque se quemaron las antenas. Dime, Cristian. Bueno, seguimos revisando. Gonzalo Ramírez ahí conversando además con un bombero, en testimonios, ¿no?, que nos van dando cuenta de la envergadura que ha tenido este incendio en Santa Olga. Emitente chilena. Cómo se dio combate, que no fue suficiente frente a incendios que han tenido características un incendio. Más condiciones meteorológicas que han ido ayudando. Hoy para la región del Maule hay situación también complicada en materia meteorológica. Allora, cosa succede? È un servizio della televisione cilena TVN. Su Twitter e Facebook in tanti, davvero in tanti, hanno ringraziato il giornalista che si chiama Gustavo Ramirez. Perché di fronte a queste immagini che probabilmente avete visto in rete, ma sicuramente vi imbatterete in questo video, a un certo punto il reporter fa il gesto al cameraman: non filmare. Di non riprendere. Cioè esattamente l'opposto di cui spesso vengono accusati i giornalisti di la TV del dolore. Sì, non riprendere. Anzi, non si riprendere. Vede lui, andate a vederlo, che si sposta apposta per permettere al, sì, al teleoperatore di non riprendere le persone che stanno piangendo. Quindi non filmare il dolore, molto importante. Adesso io volevo invece parlare di un video che mi ha turbato, commosso, ma che nello stesso momento mi ha riempito il cuore. Sì. Io non so perché, credo che questo video rimarrà nella mia memoria in maniera assolutamente indelebile. Io vorrei ti ricordi La stanza del figlio? La stanza del figlio di Nanni Moretti. C'è qualcosa in questo, sì, video che ricordi? Torniamo purtroppo alla questo tragedia, vero, di Rigopiano. Un video il cui audio fa così. Cambiano i cieli e la posizione delle stelle, anche quello a cui credi, sai, a volte cambia pelle, ma c'è qualcosa che resta sempre acceso. Ma facciamo tutte le cose. Allora, è un'immagine bellissima, una mamma, un papà e due ragazzi. Il papà sta guidando e sorride e la mamma canta anche tanto bene questa canzone, poi la cantano insieme. E dietro ci sono i due ragazzi che sorridendo, con il viso così un po' intenerito, un po' per prendere in giro, fanno il gesto il cuore. Del cuore con le mani, così come fanno i ragazzi, li prendono un po' in giro. E l'abbiamo sono... fatto tutti noi, peraltro, sì. Questo è il bello, che tutti noi ci ricordiamo una macchina, chi magari con tutti i due genitori, chi con il papà, chi con un fratello, sì, chi da, sì, solo. L'abbiamo fatto tutti. Sì, che si canta, però questo... e poi adesso ci si fanno anche i video sui cellulari, noi magari non abbiamo dei ricordi del genere. E questo è un ricordo bellissimo, perché questo video commovente è stato pubblicato dai figli di Silvana e Luciano, che sono morti nella tragedia dell'hotel Rigopiano. Allora, io mi sono posta mille domande, perché a un certo punto mi sono detta: ma io sto entrando nell'intimità di queste persone, però sono stati gli stessi figli a volerlo postare, perché è un'immagine bellissima di famiglia, di serenità, di due persone che si amano e che amano i loro figli, e i loro figli un po' li prendono in giro col sorriso. Io devo dirti che già mi avevano colpito le foto di questi due signori, perché avevano un'aria, sì, sì, sì, bellissima, sì, sì, sì. E quindi è io vero. Per loro ho sperato tanto, perché veramente avevano un'aria bellissima. Ho solo una perplessità, posso dirtelo? Sì, che certo. Siamo in chiusura. secondo me i giornali online che riprendono questi video non dovrebbero mettere la pubblicità all'inizio. Sì, è ovviamente non decidono, come no, sai, i giornalisti, certo, ci sono algoritmi esatto, che proiettano. Bisognerebbe trovare certo, un modo per dire togliere l'automatismo della pubblicità di fronte a queste in cose. In certi casi assolutamente sì, dobbiamo salutare però dicendo intanto viva l'Abruzzo. Sì, viva l'Abruzzo, veramente, non lo so, è tanto grande amore Abruzzo. E vabbè, abbiamo volevamo fatto parlarne anche in questo caso. Allora, ringraziamo Paolo Corleoni che ci ha fatto una lunga regia per 3 ore di sabato, Cristian Goldoni che come sempre senza di lui non si va in onda. Santo. E prossimo sabato torniamo ancora. Ciao.